Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. La questione dei libri di testo scolastici si ripropone con varianti di ogni tipo a ogni sacrosanto inizio anno. Da qualche tempo poi alle solite questioni sui ritardi, costi dei libri di testo si sono aggiunte varie speculazioni intorno agli ebook e più in generale al ruolo che dovrebbe spettare alle tecnologie informatiche e ai nuovi media, diciamo così, nell'educazione dei ragazzi. Spesso la discussione finisce per concentrarsi esclusivamente sui mezzi, però, quindi sui tablet, i computer, sull'hardware o software in generale, mentre se c'è una cosa che 20 anni di sviluppo di queste nuove tecnologie ci hanno insegnato è che a rivoluzionare il sistema sono sempre immancabilmente i contenuti. Ecco perché questa sera parliamo di un progetto che è senza dubbio il più avanzato, perlomeno numericamente, in Italia per quanto concerne la sperimentazione di una nuova didattica incentrata sulle risorse che mette appunto a disposizione la rete. Il progetto si chiama Book in Progress ed è nato dall'iniziativa di Salvatore Giuliano, che è preside dell'ITIS di Brindisi e che è in linea con noi. Buonasera Giuliano. Salve, buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Senta, per far capire la rilevanza del progetto, poi lo spieghiamo un po' meglio, ma diamo subito un numero. Quanti insegnanti oggi sono coinvolti e collaborano anche attraverso appunto la rete a questo progetto? Sì, circa 1000 docenti di tutta Italia, in buona sostanza siamo presenti in ogni regione d'Italia, quindi sia per le scuole superiori sia per le scuole del primo ciclo, medie ed elementari. Le medie ed elementari. Ecco, Book in Progress, come nasce questa idea e in che cosa consiste soprattutto? Brevemente, nasce nel 2009, qui al Maiorana di Brindisi, io e quattro docenti pensiamo di scrivere contenuti modellandoli direttamente sugli apprendimenti dei nostri ragazzi e quindi scrivendo i contenuti sui loro ritmi. Ecco, scusi, ci tengo subito a specificare bene questa cosa, perché qui l'idea non è di scrivere un libro di testo informatico invece che cartaceo. Il punto non è questo, non è da lì che parte il vostro lavoro. Assolutamente no. Noi il progetto nasce per migliorare gli apprendimenti e i risultati ci hanno dato ragione nel tempo. E quindi scriviamo materiali in progress, quindi i docenti scrivevano da mano che creavano i materiali e li consegnavamo ai ragazzi. Nel breve tempo si è costituita una rete che oggi conta circa 100 istituzioni scolastiche e i materiali sono aumentati e le discipline lo stesso. Oggi copriamo tutte le discipline del primo biennio, dei licei, dei tecnici. Dei ecco, questi materiali convergono, come funziona la cosa? In dei siti dove si trovano materiali di testo, video? Ci spieghi un po'? Sì. Allora, inizialmente noi abbiamo scritto solo la versione cartacea dei nostri contenuti didattici e una volta posseduti i contenuti siamo passati alla fase 2, cioè a quella di creare i libri digitali interattivi multimediali, che non possono essere un PDF, ma sono appunto dei contenuti che sono completamente diversi come impianto anche metodologico rispetto a un libro di testo. Assolutamente, perché come diceva prima lei, no, si parla sempre di ebook, ma poco spesso si parla di contenuti. La tecnologia è solo uno strumento. La tecnologia consente oggi di fare una didattica completamente differente ed è quella la sfida che stiamo affrontando, ecco, con eccellenti risultati, devo dire. Come si svolge tipicamente una lezione da voi? E si svolge, molte volte stiamo cercando di attuare il sistema della classe invertita, cioè i docenti inviano i contenuti digitali ai loro studenti che hanno appunto modo di vederli in funzione dei loro ritmi di apprendimento e il giorno successivo in classe si fa esercitazione, quindi la nostra nuova classe, impianto di classe, non prevede più la cattedra e tutti i ragazzi dall'altra parte? Assolutamente, anche perché è cambiato il mondo nel frattempo. Dico sempre che se un nostro antenato tornasse in vita non riconoscerebbe la sua città, ahimè se ritornasse nella sua classe la ritroverebbe in città. Certo, c'è questo rischio, cioè che gli studenti vivano in un mondo che è quello contemporaneo e poi quando vanno a scuola si trovino in una bolla che va avanti con delle regole diverse. Ecco, però, perché subito viene fuori l'obiezione, ma quello che devono imparare questi ragazzi è sempre la stessa roba, cioè devono acquisire lo stesso tipo comunque di competenze o cambia proprio anche il tipo di competenze che devono acquisire e non c'è il rischio che alcune competenze preziose vadano perse? No, assolutamente. Noi diciamo, siamo sempre comunque rispettosi delle indicazioni nazionali, questo è ovvio. E in più i ragazzi acquisiscono competenze trasversali molto utili. Ad esempio nelle nostre classi, nella nostra idea di classe, si lavora per gruppi omogenei di competenze e soprattutto lavorano con un obiettivo chiaro e condiviso che il docente trasmette loro. Quindi se io spiego le equazioni di secondo grado, le spiego perché dirò ai ragazzi prima, guardate, ci serviranno per. Quindi i ragazzi sono motivati. E i ragazzi molte volte, i cosiddetti nativi digitali, aiutano i loro docenti nella creazione di contenuti, mettendo in campo le loro competenze informatiche. Sì, personali. Perché probabilmente ne avranno spesso di superiori rispetto a quelle dei professori, immagino. Assolutamente sì, però ecco, ripeto, il docente diventa anche discente, certo. E il discente diventa docente, e questo migliora le relazioni e fa sentire più vicini agli alunni i loro docenti. C'è anche poi un altro aspetto, che è consentire a bassissimo prezzo di avere materiale scolastico. Oggi c'è una polemica infinita che si risveglia appunto periodicamente. Allora, noi non abbiamo finalità di lucro o commerciali. Forniamo tutta la dotazione libraria di una prima classe mediamente intorno ai 50 euro. In realtà un volume costa circa 5 euro. Okay. Sono i costi che ogni scuola sostiene per la stampa, perché noi consegniamo sia il cartaceo che il digitale. Ok, quindi non c'è una rinuncia al cartaceo. No, assolutamente, anche perché servono per due scopi diversi. Okay. Ahimè, però, purtroppo, fino ad oggi si è individuato l'ebook come la trasposizione di un PDF su un tablet, e ritengo che questa sia la cosa più sbagliata che si possa fare. Non ha senso mettere un PDF su un tablet. Sul tablet ci metti, nell'ebook ci metti quelle cose che non possono andare su carta, un video, un'interazione, un test, una simulazione. Quindi ampli il modo e ecco, per esempio, si apprende. Per esempio è possibile rivedere una lezione, no? Vedere una lezione in video. Uno se la perde o ha voglia anche solo di risentirsela. Certo, perché questo ti cambia il paradigma, perché attualmente cosa accade? Un docente fa lezione di fronte a 25-30 alunni e ognuno ha il suo stile di apprendimento, raramente si ritorna sull'argomento. Se invece queste risorse le rendo disponibili in rete, ognuno di noi avrà modo di vedersela fino a quando non diventerà padrone di quei contenuti, di quei concetti. Grazie Salvatore Giuliano. Grazie a voi, buona serata a tutti voi, grazie. È tutto, a domani.